Il Signore disse a Mosè: manda uomini a esplorare la terra di Canaan, che io voglio dare ai figli di Israele. Ne invierete uno per ogni tribù dei loro padri, tutti dei loro capi. Mosè li inviò dal deserto di Paran, secondo le parole del Signore. Erano tutti capi dei figli di Israele. Questi sono i loro nomi. Per la tribù di Ruben, Sammua, figlio di Zaccur. Per la tribù di Simeone, Safat, figlio di Cori. Per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Jefunne. Per la tribù di Issacar, Igeal, figlio di Giuseppe. Per la tribù di Efraim, Osea, figlio di Nun. Per la tribù di Beniamino, Palti, figlio di Rafu. Per la tribù di Zabulon, Gaddiel, figlio di Sodi. Per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddi, figlio di Susi. Per la tribù di Dan, Ammiel, figlio di Gemalli. Per la tribù di Aser, Setur, figlio di Michele. Per la tribù di Neftali, Nacbi, figlio di Vofsi. Per la tribù di Gad, Geuel, figlio di Machi. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè inviò a esplorare la terra. Mosè diede ad Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. Mosè li inviò ad esplorare la terra di Canaan e disse a loro: salitevi per il Negeb e salite sulla montagna per vedere la terra com'è e il popolo che vi abita, se forte o debole, poco o molto, com'è la terra che abita, se buona o cattiva, come sono le città in cui abita, se siano accampamenti o fortificazioni, com'è la terra, grassa o magra, se ci sono alberi o no. Fatevi forti e portate dei frutti della terra. Quei giorni erano i giorni delle prime uve. Quelli salirono ad esplorare la terra dal deserto del Sin fino a Rekob, sulla via di Amat. Salirono nel Negeb e arrivarono fino ad Hebron. Là c'era Achiman, Sesai e Talmai, figli di Anak. Hebron era stata costruita 7 anni prima di Tanis, in Egitto. Poi vennero fino alla valle di Escol e vi tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono con una stanga in due, con melograne e fichi. Quel luogo si chiamò Torrente Escol a causa del grappolo che i figli di Israele vi avevano tagliato. Tornarono dalla esplorazione della terra alla fine di 40 giorni. Si presentarono a Mosè, Aronne e a tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades. Riferirono l'accaduto a loro e a tutta la comunità e mostrarono il frutto della terra. Raccontarono: siamo arrivati nella terra dove ci avevi inviato ed effettivamente vi scorre latte e miele. Questi sono i frutti. Solo che il popolo che abita nella terra è forte e le città sono fortezze grandissime. Vi vedemmo anche gli Anachiti. Gli Amaleciti abitano nella terra del Negeb. Gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei abitano sulla montagna. I Cananei abitano lungo il mare e lungo le rive del Giordano. Solo Caleb fece tacere il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo e conquistiamola perché lo possiamo. Ma gli uomini che erano saliti con lui dissero: non possiamo salire contro quel popolo, perché è più forte di noi. E screditarono davanti agli israeliti la terra che avevano esplorato, dicendo: la terra dove siamo passati per esplorarla è una terra che divora chi la abita, e tutto il popolo che vi abbiamo visto è di uomini di taglia. Là abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, e ai nostri occhi eravamo come delle cavallette, così come lo eravamo ai loro occhi.